Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi tra le labbra. Il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte su. Vita che lasciasse fuori come un fiore le tue dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora giuro ci vorrebbe il mare. Che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora e forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore. Il mare questo mondo da rifare. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare.